Moncler Grenoble, passo sul tuo quartiere come Green Goblin. Sto alto sopra come i soprammobili. Entro col 50, state tutti immobili. Questa merda rap per me è un hobby. Tony fa giri per i soldi, Monopoli. Non ti vedrei neanche se usassi dei binocoli. Fumo canne grosse come binocoli. Vedo il futuro come una zingara. Dark Polo, postati come la guardia svizzera. Non parlo con una guardia sfinge egizia. Mangiamo pizza tartarughe ninja. Non vuoi giocare con il destino. Ora è un buco in testa come un delfino. Dark Polo Gang. Sto in giro col Pyrex Bimbo. State 100 anni indietro come i Flintstones. Sei un pesce piccolo, fritto misto. Ti lascio barcollante. Fatality su giù triangolo X. Penso solo a sti cazzo di contanti. Giro con l'oro addosso, Glock 9, Dark, lati tanti. Fotti con la gang, finisci morto dentro al Tevere. Parli con le guardie infame, diventi cenere. Dark Polo sempre in 13 al tavolo. Sto troppo in alto, Cristo a fianco, stronzo sono il diavolo. Ci trovi in piazza Rione, Moncler lucido. Zanotti ai miei piedi, Tony, mai stato lucido. In giro e strada sempre con quattro occhi. Sto alto, sto nello spazio, in questa merda faccio i botti. Volo alto come un cazzo di aeroplano. Tony F, ero placcato, stronzo finisci morto sgozzato. Dark Polo prendi esempio. Tu scemo perdi tempo. Sto con i miei fratelli e non mi fermo. Gol GT, canna di fucile, brucio sto cemento.